Ma io ho capito, sì sì, io me la ricordo la calzoleria. Mi ricordo anche il tipo che metteva la portanza e latte dolce. Ma cosa, ha messo la portanza per pochi giorni, poi alla fine lo incolpavano, non è vero che non aveva più di baracchino, cosa? Tanta gente diceva a lui, diceva lubinghinoso, eccetera, diceva, ma in realtà poi non ne aveva, io lo sapevo che non ne aveva più di baracchino, perché l'aveva bruciato subito in poco tempo. Però lui si è considerato che era quello che era, quel ragazzo, e allora tutte le colpe, quando arrivavano le portanti alla terroce, le colpe erano sempre a lui, ma in realtà non era lui. Sì, il primo periodo sì, ha fatto il cretino, ma poi alla fine ha bruciato il baracchino e non l'ha più riparato. Io l'ho conosciuto molto bene, eravamo vicini, si può immaginare. Da dove lavoravo io a dove lavorava lui, cosa c'erano? 100 metri, 120 metri, una cosa del genere, per cui lo conoscevo benissimo, non era vero, non ne aveva più baracchino, anche se poi lo incolpavano tutti. Vabbè. Comunque c'era gente che abitava a fianco a lui e gli arrivava la portante fondo scala, quindi già era lui, qualche volta già era lui. Comunque, proprio rivolta. C'era lì, c'era anche la latteria, oltre il calzolaio c'era anche la latteria, da dopo un po' fatti ricordi. A voglia se me la ricordo, signora, non mi ricordo come si chiama, vabbè sì, comunque anche quando già lei abitava lì, alla via, che via era quella? No, non era via Giotto, forse era via Giotto, comunque a Sacco Cuore abitava di casa, che praticamente abitava di fianco della stessa palazzina dove una volta abitava Andrea, abitava, e abitavano vicini di casa. Sì, sì, sì, quella donna, io la conosco, quella donna mi conosceva da quando sono nato, si può immaginare, mi conosceva, la conoscevo molto molto bene. Sì, quando c'era la latteria, c'era, e poi la calzoleria e anche la parrucchiera vicino c'è stata. E lì abitava un amico mio che adesso è deceduto, ha avuto un incidente e è morto. Andavo molto spesso in quella zona perché abitavo in quel palazzo proprio lì attaccato, dove c'era il portone, era a fianco a loro, quindi immaginati. Sergio Simula, non so se l'hai conosciuto. A voi deve essere conosciuto, caspita, anche l'altro giorno ho visto il fratello Bruno, per cui sì, e poi ho conosciuto benissimo anche la madre. La madre è morta, la madre di quel ragazzo è morta che avevo 101 anni, ti puoi immaginare. Poi quando è morta la madre, il palazzo l'hanno venduto, l'ha comprato questa impresa e adesso hanno costruito un palazzone, hanno costruito, che ancora tra l'altro non è terminato completamente. Comunque adesso non esiste più quella casa di prima, di Simola, era della signora Simola. Sì, sì, sì. E poi quella Simola lì sono mezzo parente con Salveglio, mezzo parente con Salveglio sono. Adesso non so da che livello, ma forse da parte della madre di Salviglio, credo che sia. Quella donna era la zia, credo, della madre di Salviglio, per cui li ho conosciuti benissimo, insomma. Io c'ero 50 anni più lì, ho già, per cui conoscevo tutti. Sergio era un bravo meccanico, era bravissimo come meccanico, infatti faceva i motori lì nel cortile. Sì, e beh certo, e vabbè, purtroppo è andata così. È andata così, cosa ci vuoi fare? Quelle sono le cose della vita, anzi le sfortune della vita. Succede. E va bene, dai. Cosa dire? Luca, ci sei ancora? Luca è sparito, sempre i fascelli, sempre col cacciavite in mano è questo. Diventa un pazzo. E allora, sempre modificando, Stamattina stavo facendo pizzi un ricevitore, l'ha tutto smontato, smantellato, pulito, spolverato, ha fatto saldature, ha fatto un po' di cosa. Sempre con il saldatore fumante lui è. Vabbè, passa il tempo almeno, non sta lavorando, quindi passa il tempo così. Anche io, qua qualche cosa, io me la faccio, microfoni, per dire quel microfono che uso in macchina, quello l'ho fatto io, da tutti gli altri microfoni che erano rotti, la capsula l'ho presa da uno, il filo dall'altro, e gli ho messo praticamente la parte esterna del microfono originale. I pezzi ci stavano giusti giusti, sembrava fatta apposta. Ok, sì, evidentemente la carcassa era adatta proprio a quel microfono lì, e dunque hai potuto fare queste modifiche. Certo che sì, e vabbè, comunque, meglio così, meglio fare queste cose anche quando uno è a casa, almeno non ti annui, non c'è problema. E vabbè, anche io ogni tanto gli affasticcio qualcosa, ma niente di così importante come una volta sì, ne facevo un po' quelle cose, ma adesso il saldatore riposa con me. Intanto già lo uso, anche da poco l'ho usato, l'ho usato anche per aggiustare il tappo, presente ce l'hai il tappo che ha la vaschetta dell'acqua del tergicristallo, sai, con il caldo della macchina si spacca il tappo perché è di plastica, no? L'altro giorno l'ho preso, ho saldato e l'ho risaldato, perché la plastica si sa, se tu la scaldi poi si risalda, dove è filato si risalda, no? Bastava mettere un po' di colla a caldo lì e la saldavo uguale. E vabbè, ma già li vendono, mi giù, poi i tappini li vendono, li trovi nei negozi di ricambi. Lo so. Il caldo dal motore fa queste cose, la plastica la spacca, anche se sono di plastiche dure a volte, ma si rovinano lo stesso. Ma comunque, l'interessante è che adesso vada bene, che non perde. Io al momento dovevo rimontarlo, dunque, anche se non perdeva, non perdeva lo stesso, perché non è che era completamente rotto, ma era filato fino a metà, e mi è venuto bene, l'ho preso, ho attaccato il saldatore, l'ho scaldato e si è rincollato, no? Va bene così. Così fanno, io l'ho visto fare anche dai carrozzieri, ad esempio, i paraurti di oggi sono più inglesi in stesso, no? E tanti paraurti che si spaccano quando prendono un colpo, eccetera. E il carrozziere, mi ricordo lì da Albioni, che li faceva così, li scaldava lui, sempre con il saldatore, di quelli tipo martello, mio martelletto, scaldava uno di quelli e ti recuperava il paraurti, perché ad esempio il paraurti della macchina mia costava roba di 350 euro, perché una volta me l'avevano schiacciato, però quella io l'avevo cambiato nuovo definitivamente, tanto me l'ha pagato lui da dietro, è arrivato e mi dice che non ha frenato e mi ha schiacciato il paraurti e me l'ha cambiato, però ho visto tante volte uno che non lo vuole cambiare, che lo spacca, la spaccatura te la salda così, con questo saldatore a martello, capito già? Sì, ma se è solo ammaccato riescono a salvarlo, capito? Praticamente se è solo ammaccato lo scaldano tipo con un phon e da dietro lo spingono. Quando è molle lo spingono e se ne ritorna al suo posto. Sì, quello sì, oltre a raddestrarlo bene, no, ma proprio spaccato, filato proprio, naturalmente che non manchino pezzi, no, è ovvio. La filatura te la saldano in quel modo, poi la levigano, la succano e verniciano e non si vede niente, e funziona bene, no? Non si rompe più, a meno che non prende di nuovo un colpo, è ovvio, no? Beh, io l'ho visto su internet, li mettono tipo staffe, tipo, è presente le graffette così, le mettono queste graffette e poi praticamente poi lo stucano con la resina, lo levigano e lo riverniciano per tenere. Sì, anche con quello si può fare, con le graffette, infatti anche quello una tenuta ancora suppongo superiore, però evidentemente non tutti usano questo tipo di coso. Io ho visto che Franco Albioni lo faceva con una cosa, con questo martello o saldatore, scaldava bene di loro, no? Tra la parte di destra con quella di sinistra, allungava e se ci andava bene, poi lo levigava e poi gli passava dello succo per schianarlo bene, di nuovo levigato e verniciato e andava benissimo, non c'era problema, l'ho visto, perché Franco era in gamba, come carrozziere Franco era straordinario, una persona che sa veramente il suo mestiere, altro che... Sì, lo so, lo conoscevo molto bene, Franco Albiuto, uno che ci lavorava l'amico mio da lui, Pino Puggioni, non so se lo riconosce, lo conosce. Ehi, già l'ho conosciuto, ma poi alla fine non aveva più nessuno, nemmeno il figlio più c'era, lavorava da solo e basta, perché dice che gli conveniva, perché se no dice doveva pagare troppe tasse, e tutto sommato non aveva torto. Ma non c'è più adesso? No, ci manca già almeno 3 anni, 3 forse anche 4 anni, ormai ha chiuso. Era grande, era più grande di me di età, almeno un paio d'anni, 2 o 3 anni più grande di me anche, dunque doveva chiaramente smettere di lavorare anche lui. Credo che abiti a Sorso, in quella zona lì, adesso di preciso non lo so, ma o forse in una campagna vicino a Sorso, abita da quelle parti lì, abita. La moglie abitava a Sacro Cuore, un periodo, vabbè, dalla mamma, abitava a Sacro Cuore quando era con la mamma, la moglie. Abitava esattamente proprio a casa Sacro Cuore. Io l'ho conosciuta bene, anche la moglie, ma poi si era separato dalla moglie e si era messo con un'altra donna, ma con la moglie si era separato, non dico molto, ma una 30 anni fa, no? Non è che non è oggi, no? La moglie, l'ho conosciuta anche bene la moglie, no? Era lì, la vedevo sempre, io quando passavo, andavo da Palmira, allora c'era Palmiri, il negozio di ferramento dove c'è la banca adesso, lì al ponte, no? E andavo a comprare il ferramento, tutte le volte che passavo c'era sempre la moglie, c'era lì, però poi si erano separati, infatti lui poi se n'era andato all'estero, se n'era andato per un certo periodo, poi è rientrato e si è riaperto l'officina, si è riaperto sempre lì in quel posto, e poi dopo un po' di tempo, un po' di anni, si è messo con un'altra donna, si è messo, che credo che l'avesse conosciuta addirittura ai tempi di quando andava a scuola, si può immaginare, praticamente una conoscenza dell'infanzia proprio. Giù. La moglie era così premurosa, l'aspettava affacciata alla finestra, e io da ragazzo, lo sai, no, che andavo in pinetta con la ragazza, eccetera. E non me l'ha già avuto con la salvemia. Sì, infatti il motivo della separazione della moglie era proprio per quel motivo lì. Però appunto è per quello che poi se n'era andato all'estero. Adesso non so se era andato in Svezia o dove era, comunque era sicuramente in quella zona lì. Ha lavorato per un anno, 2 anni all'estero, poi invece è rientrato e si è rifatto di nuovo, si è riaperto l'officina, si è riaperto che aveva lasciato prima, aveva lasciato già ai tempi di quando era con la moglie. E dunque, anche perché lì c'era rimasto il figlio, ma il figlio non è che era ancora bravo, era ragazzo allora. E dopo, ripeto, con la moglie non è più tornato e dunque si aveva rifatto la vita con un'altra donna. E invece Pino, praticamente col mio amico, è diventato carabiniere, si è sposato a Cagliari, ha fatto tutta la vita da carabiniere, adesso è in pensione già da un po' di anni. Ah, così? Ah, non lo sapevo. Ah, era diventato carabiniere quel ragazzo. Che aspetta, vabbè, è una brava persona comunque quel ragazzo. Ed era anche molto laborioso, io me lo ricordo bene. Era un ragazzo molto laborioso, insomma, diciamo che Franco si fidava anche di lui, dai, perché sapeva che lavorava. Poi a Senna dobbiamo fare strada per lavorare, abitava di fronte, il palazzo di fronte abitava. Lo so, ma per dire, no? Però già diciamo che aveva una buona infarinatura del mestiere, ed è per quello che sto dicendo che Franco si fidava anche di quel ragazzo lì. Sì. Sì, sì, era bravo a lavorare. Poi si è stufato di fare quel lavoro, ha fatto domanda ai carabinieri, tanto come carabinieri l'hanno mandato a Cagliari, lì se ne è restato, si è sposato in tutto e adesso è in pensione già da un po' di anni, anche non so anche perché la sorella lavorava in ortopedia come infermiera e ci conoscevamo bene perché andavo a casa di Pino, quindi la conoscevo bene e mi aveva detto tutte queste cose, capito? Sì, sì, sì, sì, ho capito. Vabbè, insomma, un po' come ha fatto praticamente Angelo Mello, anche lui poveraccio, però è stato sfortunato perché è morto qualche anno fa, è morto, ma anche il fratello, lui era in polizia, il fratello credo fosse ai carabinieri, non lo so, mentre Angelo era diventato vice commissario, era diventato ed era ad Alessandria, faceva la famiglia, si aveva formato una famiglia, di moglie e figli sono lì ad Alessandria, credo che avessero anche un piccolo negozietto, una piccola fabbrichetta di calzature eccetera, perlomeno so che era così, la moglie lavorava in questa calzoleria che di loro proprietà e lui purtroppo Angelo si è ammalato, già lo sai, lo Shadow 2 e un bel giorno ho letto sul computer che il vice commissario Angelo Mello era deceduto, si era ammalato, se no Angelo mi telefonava sempre, io telefonavo a lui, per cui tutte le volte che veniva a Sassari veniva a trovarmi, io e la moglie, è venuto anche con la moglie, è venuto da me, purtroppo non sapevo niente, che si era ammalato e poi una volta che ho aperto il computer ho notato, ho visto che lui purtroppo era morto. Purtroppo la vita è questa, giù, c'è chi è più fortunato e chi è più sfortunato, c'è poco da fare. Io dico la verità, il periodo di Angelo Mello ho cominciato anch'io perché mi avevano venduto un apparecchio portatile 3 canali 5 watt, 3 canali della Lafayette. Angelo mi ha detto compralo che tanto non c'ha nulla, perché non dice che non li funzionava, non c'ha nulla, già te lo metto a posto io. Ho preso questo apparecchio, cosa c'aveva? Solo i quarti invertiti, quelli di ricezione messi in trasmissione, quelli, e col suo apparecchio l'abbiamo messo a posto e funzionava perfettamente. Sì, sì, sì, tu pensa che io praticamente ho conosciuto il baracchino proprio perché me l'ha fatto conoscere Angelo era un ragazzino allora, amico, cosa avrà avuto? Avrà avuto 14 anni, 13-14 anni, e ce l'aveva già lui aveva un pony, aveva una borsa fatta su misura e usciva in giro con questo baracchino a tracolla e veniva sempre da me, e mi ricordo, poi lui aveva fatto anche il corso di elettricista, l'aveva fatto, però era un intenditore solo di coso, teorico, non è che sapeva fare in pratica, infatti qualche lavoro l'ho recuperato io, lui faceva dei lavoretti ma poi alla fine non riusciva a concludere, a farli funzionare, me lo diceva a me e ci sono andato qualche volta e gliel'ho sistemato io, gliel'ho sistemato, no? Il funzionamento eccetera. Per dirti, no, veniva da me, veniva sempre, abitava a 50 metri da dove ero io, cioè lui era in via Pascoli e io lì in via Cervi, chiaramente il Vinalari a 50 metri, non era di più. E veniva sempre da me, mi ricordo una volta stavo giocando al combattimento e si è pesato il dito e si aveva fatto un piccolo graffiettino a niente nel dito. È stato una settimana col dito indice puntato in alto così, ma non aveva niente, era proprio una stupidaggine, era niente, ma lui caspita, guai, era un ragazzino allora, dai. E mi ricordo bene dove abitava, c'era un portone grande grande, un cortile con una strada lunga lunga, lui abitava nella casa che c'era in fondo e c'era anche il carbonaio lì. Sì, infatti era lì che abitava, esatto, era lì dentro quel cortile che abitava. Sì, poi l'avevo dato la casa, gli avevo dato verso Monserrato, in quella zona lì, e so che la madre, se esiste ancora, abita da quelle parti, certo che sì, mentre il fratello lavorava a fianco alla alla pizzeria che c'è lì, sempre all'angolo di pianura, no? Nell'angolo opposto dove c'era il casolaio, l'altro fratello più piccolo di Angelo. Quello invece era carabiniere, perché Angelo era poliziotto e il fratello carabiniere, tutti e due sotto le armi. Erano un bel fratello, io me lo ricordo, perché c'è bicionaia che veniva quando arrivavo io, c'erano dei bambini piccoli. Beh sì, anche perché Angelo era il più grande, sì, che si può immaginare, era già lui un moccioso allora. Figurati gli altri fratelli come erano, quanti erano piccoli. E allora avevo 14 anni anche io, quell'età lì avevo 13-14 anni quando ho cominciato. Io ero amico di Manuel, non so se tu Manuel, Antonello Manuel te lo ricordi, ero amico di Manuel, Manuel mi aveva fatto conoscere Angelo e andavamo sempre da lui, Shadow 2, me lo ricordo come se fosse oggi. Sì, Shadow 2 si chiamava, sì, è vero. No, questo Manuel non mi ricordo, sì, ricordo il nome, però non mi ricordo chi era. Questo sì, però ripeto, Angelo, poi è successo così, no? Siccome io già vedevo ad Angelo che una volta me l'ha fatta ascoltare, no? Il baracchino lì, con un pezzo di filo così, tanto per ricevere qualcosa. Diciamo che era una cosa che mi piaceva, poi io ho sempre stato appassionato di elettronica, no? E il caso ha voluto che un giorno è venuto un mio cognato con un amico e aveva necessità di una cassa per la cantina, no? Perché loro ballavano, andavano a ballare in questa cantina e non avevano la cassa. E ha voluto che gli facessi una cassa di trucciolare, gli ho fatto, no? E mi ha detto, ma soldi non ne abbiamo, dice, ti do questo in cambio. E mi aveva dato un pony da sei canali, mi ricordo benissimo. Ecco, con quello avevo iniziato. Subito dopo poi mi avevo comprato il Linoiti e poi successivamente altri che ne sono arrivati, i baracchini. Ma per dire, no, ho iniziato con questo pony sei canali e la prima persona CB che io ho conosciuto era Antonello Passona, fratello di Costanzo Orazero, adesso non mi ricordo come si chiamava Antonello di frequenza. Norton. Sì, Norton, è vero, Norton, Antonello Norton. Anche lui ragazzino, anche lui cosa aveva? Avrà avuto 14 anni. Io un giorno stavo salendo a casa di mamma, sono passato lì davanti alla casa di Antonello e di Costanzo, dove abitavano prima, lì ai giardinetti del Monte Rosello, e ho sentito il baracchino e mi ha detto aspetta che esco. Mi sono fermato con la macchina, è arrivato lui, è arrivato questo ragazzino di 14 anni, io ero già grandetto, io ero già grande, per cui se puoi immaginare ero già sposato. E io mi ricordo anche dove abitavano, in quella casetta dove adesso c'è il dottore. Mi ricordo anche, sono andato anche a casa sua io, mi avevano bruciato un paio di cuffie che gli avevo prestato, non me l'hanno tornate, lui e il fratello, tutti e due. Ok, ho capito, sì. Beh, oggi Costanzo avrà, io penso, Costanzo ha più di 65 anni, suppongo di sì, all'incirca così, sì, intorno al minimo sarà 65 anni, minimo, non so. Ma di tanto in tanto già lo vedo a Costanzo, una brava persona, Io gli ho fatto anche tanti lavori, gli ho fatto a casa sua, anche la scala, gli ho fatto la scala in legno, la veranda, insomma ne ho fatto dei bei lavori di milioni, non di quattro spiccioli, lavori di milioni li ho fatto a Costanzo, Antonello no, a Costanzo però sì, ma conoscevo bene anche il padre, conoscevo la madre, tutti quanti, insomma, ecco, conosciuto tutti. Anche io li conoscevo, poi faceva il frigorista e poi hanno continuato loro. Sì, infatti loro sono diventati frigoristi proprio per il fatto che il padre li ha portati con sé, li ha portati, li ha insegnato il mestiere, li ha insegnato e hanno lavorato e stanno ancora sempre lavorando. Sono dei bravi frigoristi tutti e due, uno più bravo dell'altro, veramente, non si indescrivibile, io li conosco, so che sono molto ma molto apprezzati da, soprattutto dai negozianti, dai, quando vanno in giro ad aggiustare, e sono puntuali, come li chiami tu, vabbè che un negozio ha anche io ragione che siano puntuali, perché se no tu un negozio non è che li puoi lasciare senza frigolo. Lui arriva tranquillo, fa un bel lavoro e si fa pagare, e fa bene che fa così. Se fa un bel lavoro è giusto che ci faccia pagare. La moglie che è fea, che vibroni, mamma mia. La moglie lo sai chi è? Tu non so se l'hai conosciuto. Ti ricordi di Ancora? È la figlia di Ancora. Anna? Giovanna si chiama. Mentre la figlia di Antonello, quella abitava a Ottava, abitava prima quando era signorina, non mi ricordo come si chiama quella, non mi ricordo più, che era amica, ti ricordi, delle sorelle Monti, eccetera, parenti di Antonello Pomponio. Buono, ce l'ho presi. E comunque, le ho conosciute tutte quelle persone lì, tutte le ho conosciute, anche se io ero restio a conoscere gente del baracchino, tranne le donne che conoscevo, però i maschi solitamente non mi facevo conoscere. Ma io, la verità, tutti quelli che ho conosciuto, perché sono sempre venuti da me, compresi anche molte radiamatoie, molte radiamatoie, venivano da me, io non è che andavo io a cercare, anche perché io non avevo tempo di andare a trovare nessuno, perché lavoravo dalla mattina alla sera, per cui sino a tardi, la sera, sino alle 8, non avevo nemmeno il tempo, e poi rientravo a casa. Per cui, perciò tutte le persone che ho conosciuto, diciamo che se non per caso, come qualcuno, tipo che so io, Gavino Passero ad esempio, l'ho conosciuto un giorno, c'era una festa lì in Piazza Italia, se ricordo bene era il periodo della cavalcata, eccetera, quando c'era la festa la sera, ho sentito questa persona che parlava, che era a fianco a me, e l'ho riconosciuto dalla voce, e lui era entrato in frequenza un mese e mezzo, una cosa così, massimo 2 mesi dopo di me è entrato, e io l'ho riconosciuto dalla voce, non lo conoscevo, gli ho detto, ma scusa un attimo, ma tu Gavino sì? Ho detto sì, e tu che sì? E così è venuta la conoscenza, capito? No, io ero un po' restio, mi piaceva mantenere questo, diciamo, non volevo essere conosciuto, immaginava come potevi essere, questa immaginazione di con chi potevi parlare, capito? Era proprio una cosa che mi attirava, immaginarmi la persona con cui parlavo, senza conoscerla. Sì, ma infatti era meglio tenere il più possibile l'anonimato, era meglio senz'altro, ma ripeto, io non potevo rimanere in anonimato perché venivano da me, sapevano dove lavoravo e la gente veniva da me a trovarmi, per cui di tanto in tanto qualcuno arrivava, io non mai visto e mai conosciuto, e poi si presentava, sono il tizio, e dunque tutte le conoscenze che ho fatto io le ho fatte quasi principalmente tutte perché sono venuti a trovarmi loro, non è che sono andato mai io. Ancora oggi ci sono delle persone che io ci parlo sempre già da anni e che io non conosco di persona, ci posso fare dei nomi anche volendo, hai detto Marco io non lo conosco, tanto per fare un esempio, i due Marco, non uno, i due, Franco non lo conosco, Claudio il portatore se non lo conosco, Franco di Sorso non lo conosco, di persona, sto parlando di persona, eppure sono tutte persone che io apprezzo e che mi piacciono anche parlare con loro, e tanti altri, per dirti, no, non ci sono mai andato in giro io a conoscere la gente, se non venivano loro io già non ci andavo a conoscerli. Ma dovrebbe essere una natura che venisse lui quando stavi lavorando, io magari tu continuavi a lavorare, parlavi ma continuavi a lavorare, però intanto non ti lasciavano, capito, tranquillo quando stavi facendo il lavoro. Certo che no, ma è ovvio che, però diciamo, io educatamente li accettavo perché era giusto così. Per cui se uno veniva oggi e uno veniva domani, per dire, non era un problema. Certo, se poi te ne veniva faceva 10 tutte in un giorno, allora la cosa era critica, non andava bene. Ma per dirti, no, nel corso degli anni, nel corso di tutto questo periodo, di tutti questi anni, ho conosciuto la maggior parte, li ho conosciuti tutti perché venivano da me. Ma ripeto, non solo CB, ma anche dagli amatori, persone della mia età anche, no? Non solamente più giovane, come puoi essere tu ad esempio, o altri come della tua stessa età. Ho capito, un attimo che cambia parito. Ok. Sì. Ecco, attaccato l'altro, adesso così scalda anche questo. Ogni tanto li cambio per farli girare. Sì, ok. Sì, tanto più che ad esempio dove lavoravo io, nella via dove lavoravo io, ce n'erano già almeno tre di persone che parlavano a baracchino. C'era un Ponzio Pilato, c'era Lucifero, c'era, poi c'era Acqua della Notte, come si chiamava, non mi ricordo bene, anche lui abitava lì in quella strada, che già solo tre ce n'erano in quella strada che ho conosciuto per forza di cose, perché erano nella stessa strada dove ero io, preditelo. E poi tutti gli altri, vabbè, poi c'era Angelo che era dietro, anche lui, poi si sono avvicinati tutti, Nando, Gabbiano, e tutti gli altri, tutti quegli amici che io adesso nemmeno mi ricordo i nomi, li conosco tutti, so che sono, però non mi ricordo nemmeno i nomi più. Kappa, vabbè, tutti li conosco. Aquila della Notte, un periodo abitava via Pascoli, proprio dove c'è la libreria lì, adesso quella cattolibreria lì, nell'angolo, abitava lì, c'aveva l'appartamento lì. Poi tutti i dati li conosco. Antonello lo frequentavo brutto, Antonello, noi lo chiamavamo Denti, c'è di soprannome. Praticamente Antonello Lucifero, che abitava quasi arrivato alla strada dei Pini. Là. Appunto, sì, che si può immaginare, no? E poi tanti altri, chi è che non è venuto lì? Ad esempio Daniele l'ho conosciuto perché veniva a trovare Saverio, veniva a trovare, e dunque Saverio abitava sopra di me, abitava sopra il piano di sopra, per cui Daniele l'ho conosciuto così, perché veniva a trovare Saverio e l'ho conosciuto. Poi Gianni il radioamatore lo stesso veniva sempre a trovarmi, non, e tanti altri che ormai nemmeno me ne ricordo più. Lo stesso Franco California, lo stesso è venuto lui da me, io non lo conoscevo, dove, non sapevo nemmeno dove abitasse, è venuto lui, tutte persone, e a me mi faceva piacere indubbiamente. Claudio lo stesso, ha detto Claudio lo stesso, è venuto a trovarmi lui, io non lo conoscevo, per dire, no. Ma mi faceva piacere, sia ben chiaro, mi ha fatto piacere che ho conosciuto tutte queste persone, come si deve. Intanto io le persone le avevo sempre selezionate, se era una persona che non mandava genio, stai tranquillo che non gli davo filo e non la frequentavo nella maniera più assoluta, e tra l'altro nemmeno quelli io frequentavo, però visto e considerato che venivano loro, chiaramente io li ospitavo con piacere, capito già? Sì, vabbè, sì, io li ho conosciuti tutti ultimamente, diciamo nella mia seconda fase che sono entrato in frequenza, perché prima sono stato una decina d'anni che non entravo, poi io ho riacceso, cioè sempre ce l'avevo l'apparecchio e stavo in ascolto, se mi ascoltavo a Gio Maria, alla buonanima di Mario Mao, la domenica, e qualche volta entrava anche Claudio. Praticamente avevo trovato Natalino, gli ho detto Natalia, io ripristiniamo tutto, io c'era tutta l'apparecchiatura, io la proviamo, e abbiamo ricominciato da capo. I primi siamo stati io, Claudio, Natalino che parlavamo, e poi sono stati tutti gli altri, perché prima tu l'accendevi c'era sempre il QRM e basta, io mi ero tenuto un portatile tanto per vedere, capito? Poi c'avevo un booster, un 747 e il portatile, facevo andare il portatile con 747, è un'antenna attaccata a attaccato al ferro dello stenditoio. Sì, era da lì, non abitava lo stesso vicino dove ero io, abitava via Pietro Mica, lì abitava, dove una volta c'era il tabacchino, abitava lì sopra, abitava, per cui cos'era? Praticamente di fronte all'istituto delle suore, dove c'era la casa di riposo degli anziani, abitava praticamente, perché abitava in via Pietro Mica. Da lì però in via Pietro Mica quella, sì. Poi Marino lo stesso, Marino abitava la strada parallela, se che ti puoi immaginare quante cibi che io avevo tutti attorno a dove ero io, per non parlare poi di Andrea che abitava lì a Cercocuore, è tutti vicino lo stesso, tutti li ho conosciuti, anche l'altro, quello che lavora a Metraio, da Silvetio, come anzi no, dalla Sabas, come si chiama, che adesso abita a Sassari 2, che ogni tanto ci fa sentire, Giuseppe Tornado, e non è lui che è venuto a trovare me, io non ci sono mai andato a trovare nessuno, perché, ripeto, non avevo tempo, allo stesso tempo erano loro che venivano da me. E tanti altri, Gianni Rariamatore, quello che abitava su vicino ai Carabinieri prima, adesso abita via Passo, per dire, no? E tante persone, tutti venivano da me, tutti. No, ma sì, ma Giuseppe non è vetraio, no? Giuseppe lavora in ufficio. Ha ragione, Gianni, non è vero. Avanti. Aspetta un attimino, ci facciamo entrare subito. Sì, ma abitava in quella, cioè lavorava in quell'azienda lì, non era vetraio, ma lavorava in quell'azienda di Sabas, credo che sia ancora lì, non so se è cambiato posto di lavoro adesso. Sì, prima guidava il camion, poi è entrato l'aumentato di grado, diciamo, e sta in ufficio comanda tutti qua. Appunto, ti sto dicendo che quello non è, ho detto vetraio per intendere dove lavorava. Avanti, chi era quello? Luca era? Sono partigiano qua, preda niente, dai. Preda niente, sì, io sono la preda bianca. Vai già. Ciao, fra. Non so se mi ascoltate, perché sono qua partigiano e sto aspettando un attimino che scarico il camion. Sì, ti ascoltiamo forte e chiaro. Ok, dai, tu sei Gianni? Da Magara. Così si fa con la roccia. Gianni, non più rumo. Ero più forte. Questa parte Duilio, dai. Da Magara. Ma Franco sì. Duilio questa parte. Vabbè, ciao Luigi, mi hai sentito. Così si fa con la roccia. Avanti l'altro amico, dai. Ciao Luigi, avanti. Chiamati Luigi. Oggi si chiama Luigi. Vediamo bene lo stesso, non c'è problema. Avanti, riprendi. Duilio questa parte, Duilio, gatta. Duilio, vabbè, avanti Duilio, noi accettiamo tutti i nomi, non c'è problema, vai già. Ehi, dove sei Duilio, dove sei, dove ti trovi? Sono qua, in fase di scarico la Luciana, dai, sta Luciana. Come mi ascolti lì? Tutto a bomba. Andava bene, allora scarica, dai. Roba buona è portato. Alimenti, dai, alimenti. Kappa. Avanti giù. Ok. Vabbè, comunque, lavorando, ma chi te lo fa fare a lavorare? Guarda noi che non lavoriamo, né io né Gianni, chi te lo fa fare a te a lavorare? Non porto gli alimenti, non mangiate qua a Sassari. Vabbè, dai, comunque, beato te che hai buona volontà, ma noi ormai la volontà l'abbiamo dismessa, non c'è più non abbiamo più voglia, vero già. Volevo chiedere a Gianni come ascolta questo citofono. Già l'ascolto bene, dai, si sente bene. Cavagara, di lusso. Cosa stavo dicendo? Io alimenti li ho trasportato per 42 anni, quindi adesso basta. Vedi, la mangiare un po' a tutti, eh. Cavagara. Va bene, avanti Giulio. Ok, e io ho faticato per 62 anni, sì che ti puoi immaginare, già basta, certo che basta, già lo grido, vabbè comunque avrei voluto, ricominciare da capo, già, magari avere di nuovo 20 anni, così sarebbe stato bello, no? Non ti sembra? Vabbè, tu pensa che mio padre a 86 anni voleva ancora lavorare, siccome si è sentito male, il dottore ci ha detto o sta qualcuno di voi con lui o non lo fate più andare. E come faceva a starci qualcuno di noi che noi lavoravamo tutti? Quando gli abbiamo detto che doveva smettere, gli abbiamo tagliato un pezzo di cuore. Sì, perché uno quando è abituato ad una certa vita, tu puoi immaginare, e io lo stesso, ancora oggi non riesco a staccarmi proprio, cioè, diciamo che la falegnameria ancora oggi mi manca, nonostante che ormai sono fuori da un po' di anni, no? Per dire, però tu hai trascorso una vita, 60 anni, facendo quel lavoro lì, come fai a dimenticarsene? Non è possibile, assolutamente. Infatti, intanto io vado là per giocarmi praticamente, faccio qualcosina così, proprio per giocarmi, non è che lavoro, però se ho un pezzo, se trovo un pezzo di legno, per dire, mi metto a pasticciare, no? E magari poi lo butto via anche, perché intanto non saprei nemmeno cosa farmene. Ma sempre perché? Perché c'è sempre stata la passione per il legno e per la falegnameria. Io, la verità, ancora oggi mi manca ancora, nonostante che ormai sono in pensione da anni e non ho più lavorato, però mi manca, la verità, mi manca la falegnameria. Prendo il tablet e mi guardo tutti gli hobbisti che lavorano e mi piace sentire il rumore delle macchine ascoltando il tablet, Gianni. Tu mi dirai, ma è che le soddisfazioni ci prendi? Niente, così il gusto di vedere, perché mi ricorda sempre quella, il mio passato, capito? Avanti l'amico. Ehi, deve essere sceso, è andata a scaricare. Dici, no, già, purtroppo è così, ancora oggi, io tante volte me ne salgo su, me ne salgo, ho qualche macchinetta che mi sono attrezzato così a 220 e mi gioco, diciamo che mi gioco, dai, non è che lavoro, mi gioco. Ehi, vabbè, tanto per fare qualcosa, per farle andare le macchine. Pensavo te le avessi vendute tutte le macchinari. Infatti ho tutto, ancora non ho venduto niente, ho tutto. Io ho tutta la falegnameria trattata ancora, per cui le macchine grosse, ma tutte le macchinette piccoline, macchine da banco, tipo che so io, la pulitrice ballerina, la levigatrice carro armato, il trapanacolonna, la fresatrice, il trapano a batteria, il trapano elettrico, il tassellatore, tutte queste cose qua, cioè io tutte, non è che non ce li ho, e tante altre cose, la troncatrice che da quella addirittura l'ho modificata, ho fatto il banco sega, ho fatto, ti puoi immaginare, taglio nella macchina grande che ho in bottega, la Sassari, posso tagliare qua per dire, no, però faccio e smonto e così via, no? È ovvio che non è che posso tenere tutte le cose piazzate qua, no? La moletta, addirittura la moletta l'ho trasformata e posso tagliare, posso squadrare, ascolta, posso squadrare i pannelli, se io voglio fare un mobile posso tagliare a squadra i pannelli con la moletta, ascolta, cambiando naturalmente il disco, posso tagliare il ferro, posso tagliare i mattoni, per dirti, no? Nel modo come ho fatto, mi ho fatto un'applicazione a slitta, la metto sopra e taglio con tutta sicurezza e con tutta precisione, per dire, no, ecco, tutti questi giochetti qua me li faccio sempre, poi magari faccio, smonto di nuovo e così via, capito Gianni com'è? Sempre perché un po' perché c'è lui, un po' perché mi piace sempre e continuo. Se tu l'hai fatto con passione, lavoro, è normale che ti rimani in mente. È chiaro, il mestiere non è che me lo posso dimenticare, no? Tu pensa che mi ricordo ancora il fare l'elettricista, eppure sono 60 anni che non ho fatto più l'elettricista, per dire, no? Però di tanto in tanto, se ho necessità, me lo so fare il lavoro, non è? Anzi, l'ho fatto anche a tanti altri, non pagando, ma gratis, dopo che io ero già abbondantemente nel campo della falegnameria, però sia impianto elettrico, impianto TV e tutte queste cose qua. E le ho fatte gratis addirittura, per dirti, no, no, non c'è problema. Mi ricordo sempre tutto alla grande. Meglio così. Poi non sei così anziano da non ricordarti le cose, dai. Non è che c'è gente che vive nell'Alzheimer, eccetera, eccetera, non si ricorda più nulla. E tutti, è conservato la memoria, è meglio così. Quello sì, in effetti, se uno si ammala è un altro discorso, è diverso, è chiaro, è ovvio, ci mancherebbe altro. Però per dirti, io qualsiasi cosa, oggi come oggi, se dovessi fare un lavoro lo faccio bene come prima e forse anche meglio, perché magari lo faccio anche con più tempo, perché non ho tempo di da lasciare indietro, mi prendo tutto il tempo che voglio, eccetera, eccetera, e lo posso fare tranquillamente, ma non lo faccio più perché ci mancherebbe altro. Che poi tra l'altro, di tanto in tanto, quando io salgo a Sassari, che salgo in magazzino, eccetera, c'è sempre qualcuno che si ferma di tanto in tanto e vuole fare quello, me la piazza la serratura, no, non sto più lavorando, oppure ho un mobile, me lo ripari, no, non sto più lavorando, e così via. Te lo sto dicendo già, tutti mi conoscono lì e dunque tutte le volte che mi vedono, anzi, sono anche contenti di vedermi, penso un po'. Ma diciamo tutto c'ha una fine, tutto c'ha un inizio e tutto c'ha una fine, non è che si può stare tutta la vita lavorando. Mio padre, per dire, si prendeva le ferie, no? E quando era a casa cominciava, questo mattone si muove, prende, toglieva il mattone, lo attaccava, e finiva lì e faceva un'altra cosa. Stava i primi 3 giorni, andavano bene, poi cominciava, mi pare che rientro a lavorare, e mia madre diceva, statene tranquillo, fatti questi 15 giorni di ferie tranquillo. No, lui voleva ritornare al lavoro, capito? Non si annoiava. Perché così? Perché è talmente forte l'abitudine, è come l'abitudine di mangiare, se uno non mangia, muore, è così è uno che ha lavorato con 60 anni, come me per dire, e anche di più. Del resto è così, è una passione che ti si incarna nella tua mente, non riesci più a attaccarti, capito? È proprio una passione nello senso della parola, anche perché io sono stato sempre un tipo dedito al lavoro, senza, non è che andavo contro voglia, andavo con grande voglia tutti i giorni a lavorare, non a caso ho lavorato per oltre 50 anni a conto mio, per dirti, no, se no guai, come avrei fatto a andare avanti? Il discorso è sempre questo già, ci vuole soprattutto, sì, sacrifici tanti, perché tanti sacrifici, perché lavoravi durante il giorno, lavoravi durante la notte, invece non facevi altro che rimuginare e fare calcoli, fare conti, pronto per l'indomani, cosa dovevi fare per partire subito dal primo minuto che ti presentavi al lavoro. Non è che dovevo stare 3 ore lì a pensare cosa dovevo fare, e ci pensavo durante la notte, all'indomani mattina ero già pronto e sapevo già cosa dovevo fare subito di primissima partenza, capito? Sì, tu hai deciso, ciao Giuseppe. E allora Giuseppe, tutto bene? E come stai arrivando? Sullo scala, la radio è buona, qua arrivi bene. Sì, ti sento, ciao Giuseppe, ti sento, basso di radio, Santiago 7 e mezzo, però di radio sei basso, ma in ogni modo già capisco quello che stai dicendo. Avanti Giuseppe. Infatti poc'anzi ho fatto anche il tuo nome, che eri venuto una sera a trovarmi qua prima che per conoscermi, mentre io ero in falegnameria, ti ricorderai, no? Quando tu abitavi lì nella Monte Rosello, allora, in quel periodo, ed eri venuto, no? Perché stavamo facendo memoria delle conoscenze che abbiamo fatto, delle persone che hanno sempre parlato al baracchino, eccetera, eccetera. Avanti Giuseppe. Thank you. capita Giuseppe, è arrivato troppo quel rem forte. Cosa diceva l'ultima frase? Beh certo che sì, beh è ovvio, no? Quello è importantissimo, ci mancherebbe altro, quella è una questione anche di educazione delle persone, no? Quando si va avanti in buoni rapporti è sempre bello rincontrarsi, vedersi e salutarsi, ci mancherebbe altro, certo che è così. Va bene, dai, tu piuttosto sei un po' assente dalla frequenza, anch'io non è che ci modulo molto spesso, non più come prima, però di tanto in tanto già mi faccio sentire. Avanti ancora Giuseppe, fai girare poi per Gianni. Io Giuseppe. E quello è il primo piano Giuseppe, prima la famiglia e poi tutto il resto. Il resto diciamo è solo passione e basta, qui la famiglia è la prima cosa. E tua figlia viene sempre con voi Giuseppe? Perché c'è grandezza, dai, quindi magari, ho detto, magari si è staccata un po' da loro. No, e vabbè, meglio così, dai, vuol dire che si trova bene. Kappa, e vabbè, almeno se andiamo per là vicino, dai. Avanti giù. Ok, beh, non c'è altra cosa più bella che la famiglia che sia sempre unita, più unita possibile, ci mancherebbe altro. Bene, bene. Dunque l'antenna non te l'avevi poi piazzata mai, sempre con l'antennino, sì Giuseppe. No, te sentire ti sento, sai cos'è? Che c'è solamente il fracasso della propagazione, no? Ma senza la propagazione ti sentirei ancora molto meglio, sono sicuro. Però diciamo stai arrivando a Santiago 7-8 qua. La radio è sempre buona, non c'è problema. Però alle volte quando aumenta ancora il fruscio della propagazione devo aumentare un pochino il volume e stare un po' più attento per ascoltarti bene, per capire quello che dici. Comunque già va bene, non c'è problema Giuseppe, vai già. Eia, ma ci vuole più di uno che a farlo Giuseppe, un giorno ti metti e lo fai e non mi pensi più. Bisogna trovare l'input per farlo, perché anche io quando devo cambiare l'antenna era un po' così, uff, mamma mia, salire sul tetto, poi ci sono sempre quelli che salgono su a vedere cosa stai facendo, i condomini, capito? E rompono le palle, però l'ho fatto lo stesso, ho visto che siamo saliti io e Franco solo, io e Franco California, e l'abbiamo piazzata come si deve, fatto bene il lavoro senza avere fretta né nulla, vulcanizzata tutta bene, messi tiranti ed è di lusso adesso, non si muove di un millimetro. Ah, l'hai presa? Hai fatto bene. E come ti va l'hai provata? Nelle stazionarie? Ah, allora va bene, là. Se sono buone le stazionarie va bene, tranquillo. Mi dovrebbe, se c'è la massa buona, ma se c'è l'altra antenna, la massa dovrebbe essere di lusso. Sì, sì, ho capito, l'ho visto già in un altro camper piazzata così. Con questa antenna, no? Ah, ecco, quella che ti ho dato io sarebbe. Quella lunga è un'altra cosa, si deve fare di ex, però da fermo. Grazie, quella lì è come avere la mantova. Thank you. 27. Vedi, sono organizzati, i furi sono organizzati, non so come noi che facciamo tutto. Ma prima Giuseppe, quando si faceva le DX, c'era gente che andava a Usino, attaccava al portabagagli della macchina il palo e ci metteva la cosa, la Grand Prix, l'attaccava, il cazzo faceva le DX. Sì, nello spiazzo proprio dove c'è la chiesa su, lì si metteva dove ci vedono le centrali euriche e lì, cioè, ho parlato da lì, ho parlato con Abbasanta, capito? Ok Giuseppe, sì, in questi ultimi passaggi mi sei arrivato proprio bene, bene, bene, bene in radio, molto bene, anche perché si è abbassato il fruscio un po' della propagazione, per cui ti ho ascoltato in tutti i passaggi che hai fatto adesso con Gianni, gli ultimi, li ho ascoltati molto molto bene. Va bene, dai, signori belli, però io purtroppo vi devo lasciare, dai, già devo fare una terapia, per cui devo abbandonarti, dai, mi devo preparare. Ci sentiamo. Ciao Gianni, grazie per la chiacchierata, è stato un piacere. Ciao Giuseppe, grazie anche a te per essere entrato a me a salutare. Fatevi sentire che è sempre un piacere riascoltarti, così almeno facciamo quattro chiacchiere quando è possibile, almeno, se non altro. Salutoni ad entrambi e ci sentiamo. Ascolto il vostro finalino e dopodiché chiudo. Vai ancora Giuseppe, ascolto il finale e poi chiudo. Ciao già. Ciao Giulio, buona continuazione di serata, grazie per il questione, ci sentiamo magari domani, dai, avanti Giuseppe. Giuseppe, tante volte è meglio la realtà di stare chiusi in casa a parlare al baracchino. Io la penso così, se c'è giro di amici, se c'è la famiglia e coso, è bello andare in giro, sì, diciamo nei ritagli di tempo puoi anche entrare, però la prima cosa è la famiglia, si sa. Quindi non siete partiti oggi, vabbè, e magari domani se fa bel tempo, no domani non è sabato, adesso stavo pensando che fosse sabato domani, sì sabato è domani, sì, domani è sabato, e puoi andare sabato e domenica. Cappa. E che zona devi fare adesso, cosa ti manca? Quindi adesso devi andare in continente. Cavagala. Ma devi avere dei figli, dai, non puoi andare per due giorni. Allora ti prendi le ferie, se c'è questo desiderio prendi e parti, cosa devi fare? Tanto ce l'hai, la casa abitabile, non devi pagare manco l'albergo. E infatti, sì sì, è giusto che sia così, ebbene, va bene, dai, il campo è una cosa bella. Naturalmente sono spese in più, bisogna calcolare quello, però sono cose belle, perché ti devi fare la spesa per il camper, la spesa per casa, tutto raddoppiato. Sì, è vero. E vabbè, mangiare ti puoi sempre arrangiare. Ti fa arrangiare in qualsiasi maniera, se vuoi cucinare cucini, se no ti arrangi in qualche maniera e già capi lo stesso anche se mangi una pizza. Sì sì sì, e già sono cose belle, perché ha la passione. Io il campeggio in tenda non riesco a starci, perché ci ho provato, non ho dormito tutta la notte, sono dovuto andare a fare pesca a sciubacca perché non riuscivo a dormire. Quando loro si sono svegliati mi hanno trovato a me col pesce pronto per cucinare, vai. Sì, adesso anche i letti sono più larghi, più... Prima io ho dormito in roulotte, in campo non ho mai dormito, in roulotte sì però. Infatti lo conto. Sì, anche le provviste, tutto quanto, se devi mettere le provviste c'è il posto. Vabbè, tu hai preso una cosa già più grande, dai. Cosa ci vuole la C per portare il tuo? Positivo. Ah. Ma che cosa c'ha, le gemellari dietro oppure sono rotte normali? Ho capito. Vabbè. Ma comunque dai, sono dei mezzi sicuri e attrezzati adesso, non sono più come prima. Attenzione, Gianni. Avanti. Positivo, ascolti ancora. Caramba che ti sento, dai, è finito. No, negativo. Ancora stai scaricando, non perché ti abbiamo chiamato e non hai risposto, ed è sicuramente stai scaricando. No, sono scemo. Cavagava. Sono in compagnia di Giuseppe Tornado, lo ascolti. Piccolo fico. Avanti, Tornado. Positivo, dai, mi trovo qua per la niente. Cavagava. E a che ora chiude lì, perché? No, non c'è orario. No? Le volte lo chiude alle 9, ma io sono andato alle 10. Cavagava. Andà bene, andà bene. Giuseppe, io adesso devo andare perché devo portare giù il cane. Vi saluto, ciao anche al tuo amico. Devo andare a portare giù Tyson che mi sta chiamando. Vuol dire che vuole scendere, quando fa così viene a chiamarmi. Buonasera signori, dai, la cucina, dai. Ciao, ciao, buona continuazione, ci sentiamo, ciao Giuseppe, buona carica quando la fai, grazie per il questione, ciao ciao. Ciao Gianni, ciao anche l'altro amico, dai. Alle prossime, se Dio vuole, grazie.